America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bene, lo yuan si è rafforzato sul dollaro. Alla fine la Cina ha lasciato davvero mano libera, un aumento dello 0,42%, quindi non da poco per una sola giornata. Il rapporto dollaro-euro è andato a 6,79-76, il massimo in 5 anni. Una notizia che ha comunque rassicurato i mercati, è stata come una ventata d'aria fresca, durata però non tantissimo, perché poi alla fine l'indice Dow Jones, dopo un momento di rialzo brillante, ha chiuso al ribasso di 8 punti, direi quindi relativamente stabile. Perché? Beh, perché è in attesa anche di quel che dirà la Federal Reserve. Ci sono riunioni oggi a Washington del Federal Open Market Committee e ci si aspetta da parte della Fed, il comunicato in realtà sarà domani, non oggi, oggi c'è il primo giorno di riunioni, domani ci sarà il comunicato, ma da questo comunicato ci si aspetta una presa di posizione incoraggiante nei confronti della crescita da parte della Federal Reserve. Un messaggio, cioè, che vada a dire: aspettiamo un momento prima di tirare i remi in barca, prima di pensare a una exit strategy, prima di introdurre misure restrittive, perché l'economia è ancora instabile, ha ancora bisogno di aiuto. Un messaggio questo che dovrebbe essere in sintonia con quello del presidente Barack Obama e che avrà ovviamente la sua importanza, visto che arriverà a pochi giorni dal G8 di Toronto, G8, G20 di Toronto, che comincerà venerdì mattina. Una settimana dunque che si prospetta intensa dal punto di vista economico-finanziario. Un paio di altre notizie economiche. Intanto sulla British Petroleum, i conti dei danni possibili sono già balzati da 20 miliardi a 50 miliardi di dollari. Stime naturalmente, ma sono stime calcolate sulla base del fatto che la British Petroleum avrebbe commesso delle imprudenze nel momento in cui i meccanismi per il pozzo guasto non funzionavano bene. Abbiamo avuto delle rivelazioni dal New York Times ieri e da ex dipendenti della British Petroleum, secondo cui un ariete di sicurezza che doveva servire a chiudere il pozzo in caso di fughe di gas o in caso di funzionamenti sbagliati, non ha a sua volta funzionato. Il problema è che la BP sapeva forse da settimane che questo meccanismo non era perfetto, avrebbe dovuto intervenire, non l'ha fatto, di nuovo to cut the corners, come si dice in America, per prendere delle scorciatoie, per risparmiare qualche milione di dollari, e quindi il suo conto continua a salire. Infine Madoff, lo ricordate, il grande truffatore che riuscì a così far sparire 60 miliardi di dollari e poi si è preso 150 anni di prigione. Beh, le indiscrezioni di ieri, riprese dal New York Post, quindi non necessariamente attendibilissime, ma dicono che avrebbe messo da parte almeno 9 miliardi di dollari nascosti con tre amici fidati. C'è da chiedersi però chi se li godrà questi miliardi, perché Madoff non uscirà mai di prigione, con la moglie ha un rapporto difficile, è venuto fuori un libro in cui sembrava che lui la tradisse con una sua vecchia amica. Il rapporto coi figli è guastato e dunque il mistero attorno alla leggenda ormai Madoff continua. Però ecco, oggi non vorrei parlarvi solo di business, ho qualcos'altro di cui vi voglio parlare, dello zoo di New York. Upside Down, una canzone di Diana Ross, una canzone dei vecchi tempi, ha entusiasmato tutti coloro che sono andati a uno dei grandi party dell'anno, a Central Park, allo zoo di Central Park, il dinner, la cena della Wildlife Conservation Society, che poi è l'organizzazione ombrello che controlla lo zoo del Bronx di New York, forse il più grande zoo del mondo. 550 partecipanti a questa cena, banchieri, finanzieri, imprenditori e così via, alcuni dei nomi più importanti, devo dire, di New York, ciascuno ha contribuito con un assegno tra i 20 e i 30 mila dollari, qualcuno ovviamente di meno perché magari ha comprato soltanto un biglietto da 2000 dollari, ma la cosa interessante è che poi questo party nel dopo cena si apre ai giovani ventenni, i quali comprano un biglietto di 50-100 dollari e possono venire, entrare e ballare, e ne sono arrivati altri 500, quindi alla fine c'erano 1000 persone, un party di gran successo soprattutto per l'operazione di raccolta fondi per finanziare le ricerche dello zoo. Uno dei tanti party che ci sono a New York in questa stagione, ce ne sono circa 5-6 alla settimana, è difficile ovviamente stargli dietro, e ciascuno di loro, pensate, raccoglie 1.500.000 dollari, 2 milioni di dollari, fondi che vanno a rafforzare le casse in genere di fondazioni benefiche. Un nome valga per tutti, quello di Carl Bernstein, che ballava scatenato appunto sulla musica di Diana Ross. Chi è Carl Bernstein? Beh, non è un miliardario, però è un giornalista che ha fatto storia in America, è uno dei due giornalisti che scatenò lo scandalo Watergate. Allora, questo party era dedicato al fenicottero, al pink flamingo e quindi ai volatili. C'erano delle aste benefiche silenziose, c'erano dei curiosi quadri stampati, uno con una zampa d'elefante, l'altro con delle zampe di galline, e così li vendevano a 200-400 dollari per chi volesse di nuovo fare un'opera di beneficenza per questo zoo, che è, vi dicevo, un'istituzione importante. Intanto è stato aperto nel 1899 e l'obiettivo era quello di proteggere le specie in pericolo, educare i visitatori ovviamente e condurre delle missioni scientifiche. Questo zoo infatti non è soltanto così un posto dove si vanno a vedere animali in semi libertà, e devo dire appunto è uno dei migliori del mondo, ma è un grandissimo istituto di ricerca che finanzia delle missioni di specialisti sul campo e direi quasi al di là di quello che può essere un avanzatissimo istituto universitario. In questo zoo a New York ci sono oltre 4.000 animali, 650 specie. Ecco, lo zoo conduce degli esperimenti alquanto bizzarri, interessanti, divertenti. Ve ne racconto uno. Hanno messo dei profumi per capire quali potevano essere le reazioni dei giaguari del Guatemala a certi odori particolari. Hanno spruzzato appunto vari profumi sulle foglie, 23 profumi addirittura, 23 profumi di marca. Ebbene, questi giaguari non sembravano reagire in modo particolare fino a che sono impazziti sul profumo di Calvin Klein, che è riuscito a trattenerli per ben 11 minuti. Hanno filmato ovviamente queste scene, hanno cercato di capire quali potessero essere le differenze delle reazioni di questi giaguari a questi diversi profumi, e nel frattempo hanno scoperto che questi felini, che così possiamo considerare pericolosi, aggressivi, amano strofinarsi il muso l'uno con l'altro. Io non so se dedurranno importanti considerazioni scientifiche, ma visto che c'era il profumo, ma chissà, forse non vorrei essere attivo, ma potremmo anche sospettare che magari strofinandosi il muso cercavano di toglierselo. Beh, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, facile da scegliere, la dedichiamo a Eminem. Ieri è uscito il suo nuovo album Recovery, guarigione, ripresa. Devo dire, un titolo che speriamo porti bene, perché proprio questa mattina il New York Times ha pubblicato un sondaggio alquanto pessimistico sull'umore degli americani per ciò che riguarda il futuro energetico e l'economia. Un sondaggio che anche non è molto rassicurante per ciò che riguarda Barack Obama. Il 54% degli intervistati ritiene che il presidente non abbia un piano molto chiaro per creare nuovi posti di lavoro. Comunque, affidiamoci a Eminem, So Bad, una canzone del suo album Recovery. Superstar girl, I'm ready for your mama. Why you think the only thing I got on is my pajamas? So bad, so good that I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you ever had. You ain't never met nobody like me, and you ain't gonna wanna fuck nobody else again. So bad, so good that I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you ever had. You ain't never met nobody else like me, and you ain't gonna wanna fuck.